Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. La Siria non è la Libia. Questo è il messaggio che l'Unione Europea e NATO hanno ripetuto da quando la rivolta iniziò nel paese nel marzo 2011. Con questa premessa l'Unione Europea ha usato una mano leggera, soprattutto sanzioni, per mettere sotto pressione il regime di Assad. Questa settimana a Strasburgo i membri del Parlamento Europeo hanno votato però una risoluzione per supportare una soluzione politica al conflitto. Noi abbiamo sentito il presidente dei partiti liberali europei. Sentiamolo. It's a scandal what the international community is doing or is not doing. È uno scandalo quello che la comunità internazionale sta facendo o non sta facendo e il vuoto di iniziative dell'Europa. 80.000 morti per il momento e Assad sta semplicemente continuando a bombardare i propri cittadini, la sua stessa popolazione. E noi non facciamo nulla. La soluzione è molto chiara, non è facile, lo so, e richiede coraggio. Bisogna dichiarare una no-fly zone sul mare, esattamente quello che abbiamo fatto in Libia, con un buon risultato. Perché non possiamo, con la comunità internazionale, senza il supporto della Cina e della Russia, stabilire una no-fly zone sullo spazio aereo sovrastante il mare? Questo potrebbe mettere fine a questo massacro. Tutti i paesi del mondo domani celebrano la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Secondo le stime, almeno 8 milioni di bambini scompaiono ogni anno, cioè 22.000 al giorno, un numero davvero impressionante. Per coordinare gli sforzi è stato creato il Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati e da qualche anno è stato creato anche un numero comune, 116.000, cioè 116.000, un numero europeo che in Italia è gestito da Telefono Azzurro. Allora sentiamo Ernesto Caffo, presidente e membro dell'ICMEC. La Commissione Europea ha deciso ormai da 5 anni di sostenere una rete attorno al numero unico 116.000 come numero a cui poter chiamare in tutti i paesi europei, ormai sono diventati 28, che permette sia nella lingua locale sia in inglese di poter chiedere aiuto. E questo numero è importantissimo per quanto riguarda soprattutto gli adolescenti che scappano da un paese all'altro. Noi affrontiamo anche con questo numero la sottrazione internazionale di minori che in Europa esiste in modo anche significativo. L'altro tema che esiste purtroppo è quello poi del rapimento di minori che molte volte con lo spostamento possibile dei ragazzi e anche degli adulti nell'area Schengen deve richiedere sempre una collaborazione internazionale. I sistemi attualmente in opera sono efficaci? Lo abbiamo chiesto al responsabile di Defense for Children Italia, Pippo Costella. Impact è un tentativo di affrontare i problemi della tratta e dello sfruttamento pensando che ci sono condizioni strutturali che rendono possibile questo fenomeno criminale. Purtroppo il quadro italiano, così come quello europeo, ma in particolare quello italiano, è connotato da una grossa frammentarietà delle politiche. Purtroppo le risorse sono poche e soprattutto riteniamo che la tratta venga sempre o quasi sempre affrontata non nel contesto più generale ma come fenomeno a sé stante. La tratta è un composito di fenomeni e di dinamiche che devono essere affrontate in modo più ampio, soprattutto se si vuole utilizzare una logica non solo basata sull'emergenza ma una logica di carattere preventivo. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio presentare il quinto appuntamento dei dialoghi con i cittadini promossi dalla Commissione europea. È una tappa molto particolare, quella in programma lunedì 27 maggio alle 12.30, quando oltre 500 studenti delle scuole superiori raggiungeranno l'isola di Ventotene, luogo simbolo del percorso comunitario, per incontrare il commissario Antonio Tajani. Come si esce dalla crisi? Siamo pronti per un'Europa federale? L'adesione di nuovi stati membri ci renderà più deboli? Sono queste alcune delle domande che i ragazzi hanno già preparato per il vicepresidente della Commissione europea, ma sarà possibile anche intervenire via Twitter, sin da ora, utilizzando l'hashtag EUDEB8. Tutte le informazioni sul sito ec.europa.eu. E naturalmente su radio24.it. Con questo è tutto per la settimana di Europa 24. Un saluto in regia da Fabio Cantadore, al microfono Gigi Donelli. L'appuntamento con Europa 24 torna naturalmente lunedì prossimo. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.